notte che se ne va, lindo rumore chi fatica sì. Notte stretta per chi vuole dormire, che non lo che non riesce a capire. Notte chi fuma sa, perché ho tempo da passare. Notte chi sa regrere, sanne forte ricezioni su. Notte chi fa i cartù e chi arrinda più cru. Notte non da dormire a chi se vuole a ca. Notte che vende, notte che fa, esce sto giorno a chiamare a spettare. E chi invece non ha saputo niente. Notte chi sa con te, ma non si fa portare. Notte chi venne sempre